Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei fare un'osservazione un po' estemporanea in merito al concerto del 1° maggio organizzato da CGIL Cisl e Will. Non intendo ovviamente soffermarmi sulle questioni musicali, ma sul palco e sulla rappresentatività dei sindacati. Mi spiego meglio. Proprio venerdì mattina il vostro direttore diceva che la media degli iscritti ai sindacati è 45 anni. In pratica i giovani, i quali, vista la contrattazione a termine ormai diffusa, sono l'anello debole della catena. Non solo non vengono tutelati, o comunque lo sono molto poco, ma è evidente che non si sentono neanche rappresentati, probabilmente perché considerano i confederati come portatori di interessi estranei a quelli dei lavoratori. Venerdì, guardando alcune parti del concerto, ho assistito a una scena penosa. Sul palco nessun riferimento alla CGIL, alla CISL, alla UIL, che erano gli organizzatori, ma solo lustrini e luci da concerto in un anonimato disarmante. Il logo dei sindacati schiacciato e praticamente mai inquadrato nell'angolo dello schermo, impercettibile e mischiato ad altre associazioni, enti o banche. Nessuna bandiera, né rossa né sindacale. Dulcis in fundo, lo slogan della manifestazione è una canzone di Vasco Rossi. Incredibile. Secondo me tutto questo è vergognoso. Il senso del 1° maggio è sfumato. Anche quello di dare una risibile speranza. Tra l'altro è stato proprio Vasco Rossi quello che alla fine ha fatto la figura migliore, augurando in bocca al lupo ai giovani presenti. Non mi stupisce quindi che l'età media degli iscritti ai sindacati sia così elevata. Fabio, provincia di Oristano. Il 1° maggio è diventata la festa degli automobilisti. Una volta era la festa dei lavoratori, ma oggi sono troppo pochi. Gli automobilisti in coda invece aumentano. Sabato 5,5 milioni di auto si sono messe in moto. Sembra una barzelletta, ma non lo è. La fine del petrolio, la crisi mondiale e una disoccupazione reale che supera il 14% ci fanno il solletico. Bene quindi ha fatto la società Atlantia in Benetton ad aumentare le tariffe di Autostrade per l'Italia del 2,4%. Meglio ancora hanno operato Autostrada Tirrenica, più 5,14%, Tangenziale di Napoli, più 6,63%, e Autostrade Meridionali, più 4,89%. Ottimo anche l'adeguamento quasi sensazionale della Asticuneo, più 9,30%. I concessionari autostradali sono stati troppo buoni, quasi onesti. Guadagnano miliardi di euro con un pedaggio applicato ad autostrade già pagate dalle tasse degli italiani negli ultimi 50 anni. È giusto così. L'occasione fa l'uomo ladro e il concessionario dovrebbe tirarsi indietro? Proprio lui, così vicino ai partiti da permettersi il lusso di finanziarli alla luce del sole. Anche gli sfollati del terremoto devono contribuire. Tutti sono uguali di fronte al pedaggio. Infatti sulla A24 e sulla A25 migliaia di abruzzesi, che si recano all'Aquila, hanno ripreso da sabato a pagare il pedaggio, che era stato sospeso a causa del sisma. Chissà se lo pagheranno anche i torpedoni ministeriali in arrivo per il G8. Da Torino a Venezia ci sono centinaia di chilometri di asfalto. Sabato si sono trasformati in un parcheggio di macchine usate in leggero movimento, immobili tra Milano e Brescia. In fila per pagare al casello, ascoltare la musica, usare l'aria condizionata, commentare le ultime notizie sull'influenza suina. Alessandro. Sono il papà di un bambino di 4 anni che soffre di tetraparesi spastica. Alla luce di quanto accaduto in Florida, rinnovo ancora una volta il mio invito. Vi prego, i soldi raccolti a fin di bene per aiutare bambini con difficoltà, usateli per terapie con basi scientifiche valide. Therapies for Kids e affini non forniscono le necessarie garanzie e non esiste una sola base scientifica dimostrata. Qui in Italia lo sanno e lo sapevano da tempo. Non solo, non si può lesinare sulla sicurezza. E adesso cosa succede? Chi accerterà la responsabilità? Chi risarcirà i genitori che devono sommare disperazione a disperazione? Ho sentito giornalisti dire «Era andato in Florida per curare la tetraparesi spastica». Ma stiamo scherzando. La tetraparesi non si può curare, ad oggi. Qui in Italia abbiamo dei fisioterapisti, neuropsicomotricisti e neuropsichiatri d'eccellenza e non siamo secondi a nessuno. Evidentemente è solo necessario trovare quelli che più si adattano alle caratteristiche dei nostri bambini. Sono arrabbiato e indignato per tutta questa disinformazione e questa gente che specula sulla bontà delle persone. Mi rivolgo a tutti i genitori di bimbi diversamente abili. Aprite gli occhi e usate i soldi per dare una vita la più serena possibile al vostro bimbo. L'Istituto Superiore di Sanità rimborsa già i viaggi all'estero in strutture che possono avere terapie che in Italia non si trovano, quindi le raccolte di soldi sarebbero superflue. Evidentemente queste strutture non sono riconosciute dall'Istituto Superiore della Sanità e hanno ragione. Vi prego ancora una volta di riflettere e gridare ai quattro venti questa piaga che tutti i giorni viviamo, con mobilitazione di cantanti, attori e gente che in buona fede tutti i giorni ingrassano queste aziende senza scrupoli. Paolo. Le scrivo perché sono indignata da tutto questo parlare e sparlare sulla reazione di Veronica Lario. Credo non sia giusto che da più di una settimana i giornali facciano pesanti insinuazioni sulle presunte relazioni di Berlusconi, senza alcun rispetto per la moglie e i figli. E adesso che la moglie risponde, si stupiscono della cosa. È disgustoso che un professore si permetta di dire che la moglie deve stare zitta perché dimentica che i soldi le derivano dal marito. Ma come si permette? Ma come si permettono tutti di attaccare una persona dal punto di vista personale senza rispetto per i sentimenti di chi gli sta intorno? Premetto di essere una fedele elettrice di sinistra, quindi non sono certo una fan sfegatata del Premier, ma trovo che sarebbe ora di giudicare finalmente le persone per quello che fanno nella vita pubblica. Sarebbe ora di rifiutare che la parte privata, ancorché sbandierata dall'interessato per fini propagandistici, sia oggetto di infinite discussioni, peraltro sterili. Gli elettori decideranno sulle persone in lista e daranno il loro voto su chi viene ritenuto idoneo al ruolo. E questo è tutto ciò che importa. Patrizia. Non mi interessa se Berlusconi candida delle letterine o letteronzole nelle liste elettorali del PDL per le europee. Non mi interessa delle recriminazioni coniugali di Veronica Berlusconi nei confronti del marito. Il motivo? Tutto ciò è fumo negli occhi. La candidatura delle veline è un falso problema, per due motivi. Uno, saranno gli elettori a scegliere i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Ed essendo un sistema elettorale con preferenze e non a liste chiuse come per le elezioni nazionali, i candidati verranno eletti solo se avranno ottenuto delle preferenze. Se poi le veline dovessero essere effettivamente elette, vorrà dire che i cittadini italiani vogliono essere rappresentati da loro, quindi saranno i rappresentanti europei che ci meritiamo. 2. Evitando facili ipocrisie. Dobbiamo dirci che, se non altro, dagli anni 80 in poi, tutti i partiti hanno usato il Parlamento europeo come parcheggio di vecchi rottami politici, ormai impresentabili o momentaneamente impresentabili, in Italia. Dopo Tangentopoli, l'intera classe dirigente, da sinistra a destra, passando per il centro, ha premiato i politici coinvolti nelle inchieste degli anni 90 con un seggio europeo. E tutti i partiti hanno premiato uomini e donne dello spettacolo, loro elettori e sostenitori, con un seggio al Parlamento europeo. Quindi è un malcostume, perché comunque si tratta di questo. Però, ben antecedente alla discesa in campo del Cavaliere. Il problema non è che Berlusconi candidi delle letterine. Il problema è che, da quasi 30 anni, noi diamo all'Europa gli scarti della nostra classe dirigente. Le diatribe tra marito e moglie non sono un problema per due motivi. Primo, non siamo in una monarchia, ma in una repubblica in cui il mandato di premier è a termine e il potere è controllato dall'opposizione e dall'opinione pubblica. 2. Berlusconi non ha vinto le elezioni con il televoto, ma attraverso delle elezioni politiche. Ne consegue che la sua vita privata non deve interferire in alcun modo nell'attività di governo, né dovrebbe essere di interesse per l'opinione pubblica. Quindi l'esercizio di opposizione fatto dal PD tramite Veronica è puerile e sterile. Denuncia solo la totale inconsistenza di un partito, quindi di una dirigenza, incapace e totalmente inadeguata. Il dramma sta tutto nella mancanza di vigore politico e progettualità dell'opposizione rispetto a Berlusconi. Non vi sarà mai un progetto politico alternativo a Berlusconi e di certo non lo è il PD attuale. Siamo sicuri che il vero problema in Italia sia Berlusconi? Oppure Berlusconi è il sintomo di un problema più profondo, cioè non avere più una classe dirigente? Non stiamo scambiando il sintomo per la malattia? Massimiliano. Vorrei segnalare che in una nota discoteca in Reggio Emilia hanno esposto all'interno grandi manifesti indicando uno dei prossimi candidati politici alle amministrative della città. Che ne pensate? Rompe gli schemi tradizionali, etici, oppure è solo una spinta sull'acceleratore dell'innovazione per avere sempre più consensi? Sembra giusto e moderno, il nuovo che avanza, oppure disdicevole sotto il profilo del buon gusto? Dario. La scorsa settimana ho ascoltato l'intervento di un deputato leghista in merito all'ordinanza relativa al cibo da strada, limitata alle rivendite di kebab e simili. Mi ha molto divertito la querel che è nata e che ha visto contrapposto il kebab, il couscous e la cassola milanese, quasi fosse un punto d'orgoglio fondamentale degli uomini del nord. Nel mio percorso verso il luogo di lavoro, passo tutti i giorni davanti ad un cartellone pubblicitario del PD, per le elezioni della provincia di Novara, che dice «Nouvelle cuisine? No, grazie, meglio la paniscia». Non è ridicolo che sia a destra che a sinistra si stia facendo una campagna elettorale culinaria? Se a destra sono più ruspanti, contrapponendo il cibo da strada con la cassola, a sinistra, come sempre, ci si spaccia per essere più intellettuali e si contrappone la nouvelle cuisine, non è che sotto sotto ce l'avranno con Sarko, alla paniscia, piatto tipico novarese a base di riso e fagioli. La mia vuole essere una provocazione leggera, ma ad un mese dalle elezioni, di programmi non ce n'è nemmeno l'ombra. Mi chiedo, devo stupirmi ancora alla soglia dei miei primi 40 anni? Forse una spiegazione c'è. Dopo anni di magna magna, anche in campagna elettorale i politici si stanno adeguando, inviando un messaggio quantomeno inequivocabile. La crisi globale che sta investendo il nostro paese mi preoccupa molto. Mi preoccupa per i miei cari, per i miei figli prima di tutto, perché anche con ogni buona volontà non potranno avere i frutti del lavoro dei loro padri. Quello che in passato era un dovere per un genitore, oggi non è più possibile. Confido pertanto nei valori, nel patrimonio culturale, che spero di tramandare loro nel migliore dei modi, senza astio o rabbia, perché è soprattutto questo il sentimento che l'attuale regime suscita in chi, come molti di noi, sopporta situazioni causate da una sbagliata gestione delle risorse della finanza pubblica. Ascoltavo qualche settimana fa un noto politologo ad una trasmissione televisiva che proclamava il fallimento della scienza economica in quanto incapace di prevedere la crisi. Possiamo farcela ad uscire da tutto questo senza gravare ulteriormente sulle classi più deboli? Sono molto pessimista al riguardo e poco fiduciosa. Michela. Caro direttore, la crisi economica di cui si parla tanto, con le difficoltà delle banche, la caduta dei consumi, la crescita della disoccupazione, è ai primi posti negli interventi dei governi e delle autorità finanziarie. Ma mi viene da pensare che si stia facendo molto per limitare gli effetti della crisi, ad esempio con i costosissimi piani di salvataggio delle banche, mentre mi pare che si stia facendo molto poco per scoprire e tagliare le radici della crisi. Di nuove regole, per esempio, si è parlato tanto e si è fatto molto poco. È così difficile tagliare le ali alla speculazione finanziaria e alla cupidigia dei banchieri. Antonio. Caro Antonio, lei ha ragione nel sottolineare come i primi interventi per limitare la crisi economica abbiano avuto l'obiettivo di contrastarne gli effetti negativi. Se c'è un uomo in mare, è bene lanciargli un salvagente, ma poi è altrettanto importante porlo in salvo e farlo salire a bordo di qualche nave. Il problema ora è quello di individuare dove siano quelle che lei chiama le radici della crisi. Certo, il problema delle regole è altrettanto importante quanto difficile da attuare, anche perché c'è bisogno di regole globali e quindi di un'autorità globale che le faccia rispettare. Ma le regole sono solo una parte. Al fondo è necessario ridare la centralità al lavoro e all'impresa come elementi di produzione del valore, cioè evitare che la finanza si illuda di poter crescere su se stessa, di poter costruire soldi sui soldi in una progressiva esasperazione dello stesso mercato finanziario. La finanza è un elemento essenziale dell'economia, ma se si stacca troppo dalle cose concrete non può che far rivivere il mito di Icaro, bruciandosi le ali per aver voluto volare troppo lontano dalla terra. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.